Quando siamo usciti da lì non mi andava di tornare a casa, nemmeno a Samir. E non so come, ma mi era venuta voglia di visitare un bel posto, un posto che fosse lì da secoli, che fosse bello da vedere e che mi aiutasse a farmi passare quel senso di colpa. L'ho portato a Sant'Eustorgio. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 6 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Io non ho mai veramente vissuto all'estero. Mi è capitato di passare dei lunghi periodi in una città straniera degli Stati Uniti, dove avevo una persona cara e avevo una specie di lavoro. La città non era una città qualunque, era New York, che è una sorta di città-stato, che poi è composta per lo più da stranieri che vanno là per vari motivi, per cercare lavoro, soldi, carriera. Inevitabilmente però ho scoperto che cosa voglia dire essere straniere in terra straniera. Ho capito che la prima cosa che viene normale fare quando si è lontani da casa propria, anche se lo si è voluto, anche se si è cercato di andare lontani da casa propria, è ricreare alcune sembianze di casa propria. Quasi senza accorgermene ho iniziato a frequentare degli italiani quando ero là. Italiani che frequentavano altri italiani, che si trovavano insieme ad italiani. La comunità italiana che frequentavo era autoconvocata, non era istituzionalizzata, erano persone che si erano cercate, trovate e ogni tanto si ritrovavano tra di loro. Persone che solo per avere una lingua e una provenienza comune si trovavano come se avessero qualcosa da condividere. Ed era una bella sensazione, quella di sentire che effettivamente qualcosa da condividere c'era, anche se non sapevi esattamente che cosa fosse. Però sapere di poter contare su qualcuno, sapere che l'Italia vista da lontano è quasi più bella di quando le sei vicino. Insomma, ho pensato che fosse una particolarità tutta italiana, questa. Quella della solidarietà, della vicinanza tra sconosciuti. Poi invece ho frequentato anche gruppi di persone provenienti da altri paesi, come la Francia ad esempio, la Svezia. E ho capito che invece è sempre così, per tutti quelli che vivono fuori dal proprio paese. Il fatto di far sorgere delle comunità spontanee di persone della stessa nazionalità è una cosa che tutti vogliono fare. Ecco, ora, in questo momento preciso, alle 16:09 minuti di un giovedì 14 aprile, in questo momento all'ascolto probabilmente ci sono persone che hanno vissuto all'estero, o magari vivono all'estero, stanno ascoltando in streaming, magari sono al lavoro, magari sono a casa e sono, in Francia, in Belgio, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania. E quindi magari queste persone frequentano delle comunità di italiani. Ecco, oggi mi piacerebbe sentire loro, mi piacerebbe sapere da loro che cosa fanno quando si incontrano, se fanno solo delle grandi cene, a base di pasta ovviamente, se si guardano le partite di calcio, oppure se fanno qualcosa di più, se organizzano serate, concerti, eventi di qualsiasi tipo. Insomma, come sono le comunità italiane all'estero oggi, nel 2011? Se volete raccontarmelo, io sono qui. E avete un numero, che è sempre quello, che è l'800240024 per chiamare in diretta gratuitamente, oppure 349-238-6666 per mandare un sms e partecipare. Siccome c'è un profilo Facebook sul quale racconto diciamo quello che più o meno racconterò durante la puntata, alcuni messaggi mi sono già arrivati. Il messaggio di Esther, ad esempio, che è stata in Erasmus a Manchester, dice: ho fatto parte per qualche mese dell'Italian Society del l'università. Ragazzi italiani e inglesi che studiavano italiano si incontravano ogni settimana in un pub a parlare dei fatti propri e darsi consigli a vicenda riguardo locali, luoghi turistici. Vabbè, insomma, questa è abbastanza semplice, semplicemente persone che fanno l'università e che in qualche modo sono interessati, anche se non capisco bene perché, all'italiano, nel senso che a meno che tu non sia italiano, diciamo, l'italiano non è una lingua proprio che è utile, così utile da imparare. Maria Lucia, io vivo a Bruxelles da un sacco di tempo. Qui ci sono diversi circoli di sardi, perché lei è sarda, quindi è ancora più specifica la comunità. Non li frequento però perché sono legati a troppo folklore. Certo, si presentano come mamutones, sai come sono i sardi quando sono troppo folcloristici. E adesso giù sardi che mi randellano. Eppure da quando sono qui a casa, a casa mia si è creata una sorta di libera repubblica di Sardegna, visto che praticamente tutte le domeniche e non solo si ritrovano un gruppo di sardi esuli con annessi belgi simpatizzanti a mangiar bene, chiacchiere e nei giorni previsti guardare videolina per la sartiglia. Cos'è la sartiglia? È una roba... aspetta, sarda secondo me. o per Sant'Efisio degustando Malloreddus o zeppole, bevendo Roca Rubia o Tanca Farrà. Non ho azzeccato un accento, però secondo me qualche sardo mi può aiutare meglio. 80024 0024. Diego, Diego vive in Brasile invece. Per me qui in Brasile viene difficile frequentare italiani, trasmettono troppa tristezza con i loro discorsi negativi nostalgici. So dove si ritrovano e giro alla larga da loro. Vabbè, di solito non è così generalistico, generalizzato, Diego. Magari c'è qualcuno più triste di altri e qualcuno sente la nostalgia più di altri. E poi anche Valeria, comunità italiana a Londra. Ho scoperto che c'è una chiesa in cui si dice messa in italiano. Forse le comunità italiane all'estero sono la parte migliore dell'Italia. Vabbè, magari anche no, sono semplicemente una parte dell'Italia che si vive all'estero e si ritrova là. 80024 0024. Ah, poi c'è un appello. Aspettate, c'è un appello. Paolino, fermo lì. Evi: ciao Matteo, abito a Vigo, nell'estremo nord-ovest della Spagna. Qui di italiani proprio non ne ho visti. Magari potresti fare un appello in radio. Se ci fosse qualcuno in ascolto, mi piacerebbe conoscerli. Grazie. Allora, io non so quante persone nel nord-ovest della Spagna in questo momento a Vigo, vicino a Vigo, stiano ascoltando in streaming Radio 24, che vi ricordo si può ascoltare attraverso il sito radio24.it. Se però c'è qualcuno, c'è questa ragazza, Evi, non so, credo stia per Eva probabilmente, o Evita magari, c'è sta povera ragazza che è da sola, ha anche un profilo Facebook, perché andate a vederlo sul profilo, ci arrivate attraverso il profilo del programma. Evi si chiama, cerca qualche italiano con cui fare qualche chiacchiera a Vigo. Cosa ci fai? O magari no, magari è una spagnola che vuole parlare italiano. Vabbè, ma anche chi se ne frega. Se c'è qualcuno nel nord-ovest della Spagna che voglia ricontattarla, ci passi attraverso il profilo del programma. Io in questi giorni continuo a girare un pochettino per la città. Non giro da solo, giro con uno straniero che sto ospitando a casa mia e scopro cose di questo paese e di questa città che non conoscevo. Ormai ci sto prendendo gusto. Quasi tutti i giorni, quando torno a casa dalla radio, carico Samir sulla Vespa e lo porto in giro per Milano. Dire che stiamo diventando amici forse è esagerato, però tra di noi ci sono già dei sottintesi, delle piccole esperienze rivissute insieme, e questo ci fa sentire un po' più vicini. Ieri erano le 6 del pomeriggio, c'era ancora un sacco di luce. Siamo andati a Parco Sempione prima e poi a quello di Porta Venezia. Ormai più che raccontargli le cose della città, ce le guardiamo insieme e poi parliamo d'altro. Ieri volevo fargli vedere un museo e quindi siamo finiti davanti al PAC. Appena fuori Parco Venezia ci sono questi due edifici molto lunghi, molto diversi tra loro. Uno è il PAC e l'altro è la Galleria d'Arte Moderna. In mezzo tra i due c'è un cancello. L'ingresso del PAC è tutto murales, invece la Galleria d'Arte Moderna è molto seria, molto elegante. Il cancello dà su un vialetto di ghiaia, più oltre inizia un giardino. Un prato gigantesco, con dietro quello che così, a vederlo da lontano, dovrebbe essere il retro della villa enorme che si vede da fuori. E poi in mezzo un lago. Con un'isoletta, un patio che è una meraviglia. E poi paperelle, ninfe e fiori. Samir, quando ha visto il lago, è impazzito. Ci siamo messi a camminare per il parco. Praticamente, venendo in questo giardino, puoi vederti un pezzo della mostra che sta dentro al padiglione d'arte contemporanea. C'è nel mezzo la statua di una ragazza che legge, è seduta su un ceppo, l'espressione del suo viso è un po' strana, come vacua. Samir, camminando, improvvisamente è inciampato, ha quasi lanciato un urlo. Per terra ci sono i resti di un soldato morto, che vengono su dal terreno, proprio a fianco della ragazza che legge. Sono statue, ovviamente. Il padiglione era ancora aperto, ho chiesto a Samir se volesse entrare. Lui, entusiasta, mi ha detto di sì. Solo che in quel momento gli è suonato il cellulare. Ha iniziato a parlare in arabo, a ridere, a scherzare come se parlasse di calcio. Ha appeso e mi ha detto che il museo l'avremmo visto un'altra volta, perché eravamo stati invitati a prendere un tè a casa di amici, amici che vivono qui a Milano. Siamo risaliti in Vespa e siamo partiti. Mi ha raccontato che non erano persone che conosceva direttamente, ma erano amici di amici e gli faceva piacere incontrarli. Siamo arrivati davanti a un benzinaio dalle parti di Viale Certosa, più o meno. Lui ha chiamato il suo amico al cellulare e dopo 5 minuti è apparso un tizio che è venuto a prenderci. Ho parcheggiato la Vespa e l'abbiamo seguito. Siamo passati attraverso una rete metallica tagliata a metà. Ci siamo trovati nel cortile di una fabbrica dismessa. Abbiamo fatto 5 gradini e siamo scesi nello scantinato. Era uno spazio enorme. C'erano 5 o 6 tende, dei materassi e un fornellino a gas da campeggio. Samir ha salutato tutti con dei grandi abbracci anche se non li conosceva. E loro hanno iniziato a parlare in italiano per rispetto a me, perché potessi capire tutto. Ci siamo seduti su dei divani sfondati. Loro hanno messo un pentolino a bollire sul fornello. Parlavano di lavoro, di donne e di calcio, tutto regolare, insomma. E per fortuna c'era pure uno che era interista. Abbiamo bevuto il tè, che era buonissimo. E mentre lo sorseggiavo, non so nemmeno bene il perché, ma ho iniziato a sentirmi in colpa. Look, if you had one shot, one opportunity. The music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better so. Ho iniziato a sentirmi in colpa. Quando siamo usciti da lì, non mi andava di tornare a casa, nemmeno a Samir. E non so come, a me era venuta voglia di visitare un bel posto, un posto che fosse lì da secoli, che fosse bello da vedere e che mi aiutasse a farmi passare quel senso di colpa. L'ho portato a Sant'Eustorgio. Sant'Eustorgio è una chiesa bellissima, come tutte le chiese di Milano è sottovalutata. L'ultima volta che ero stato in una chiesa era in montagna, in quella di Don Claudio, però era diversa. Quella in cui siamo finiti con Samir l'altra sera era più fresca, più accogliente. Sarà stata l'aura spirituale che ci albergava o il disagio del posto in cui eravamo appena stati, ma quando siamo entrati mi sono sentito subito meglio. Mi sono seduto su una delle panche nella penombra della navata laterale. L'aria sapeva di cera e di legno stagionato. In chiesa c'erano poche persone, quasi tutte donne anziane. Alcune pregavano, altre sistemavano i fiori. Samir si è seduto qualche panca più avanti e si è addormentato. Improvvisamente ho sentito un rumore alle mie spalle. Ho visto un ragazzo più o meno della mia età, vestito con dei pantaloni scuri e una camicia chiara, che entrava in una cabina di legno e poi si chiudeva dentro tirando una tendina viola che lo copriva completamente. Una delle signore che stavano pregando si è alzata, ha raggiunto il confessionale, si è inginocchiata di lato e si è messa a parlare sottovoce. Dopo più o meno 5 minuti si è alzata e se n'è andata. Io non so esattamente il perché, però improvvisamente quella mi è parsa una grande possibilità. Una possibilità capitatami per caso. E ho la sensazione che quando le possibilità ti capitano per caso è sbagliato non coglierle. Alla fine ho pensato, c'ho tutti i sacramenti, ho fatto le scuole medie in seminario e quindi avevo la possibilità di farlo. Non ci ho pensato 2 secondi, mi sono alzato e ho raggiunto l'angolo nascosto del confessionale, da cui era uscita la signora. Mi sono inginocchiato, ho alzato gli occhi e da una grata fitta fitta ho intravisto appena la sagoma del prete. Ho chiuso gli occhi. Ho detto una frase che non saprei da dove arrivava, ma che da qualche parte in fondo alla mia coscienza sporca doveva esserci, altrimenti non sarebbe potuto uscire così precisa. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. È trascorso un attimo di silenzio e poi una voce sorridente dall'altra parte della grata mi ha detto che serietà! Passa di qua, dai, che almeno ti vedo in faccia, allora la usano solo le vecchie e di qua non devi neanche rimanere in ginocchio. Mi sono alzato, girando intorno al confessionale. Mi sono seduto su una sedia impagliata. Lui ha tirato la tendina e mi ha sorriso. Aveva il volto paffuto, sereno, non era vestito come un prete, però non so come, non so nemmeno il perché, però si vedeva che lo era. Ha allungato la mano destra e si è presentato. Piacere, io sono Don Stefano, mi ha detto. Piacere, sono Matteo. In un attimo abbiamo iniziato a parlare come se ci conoscessimo. Io gli ho detto che non mi confessavo da un sacco di tempo. Lui ha risposto che non era un problema. Allora gli ho raccontato che oggi mi sentivo oppresso da uno strano senso di colpa. E lui ha sorriso. Ha detto che a volte capita per molto meno e a volte non capita per molto di più. Io gli ho detto che mi sentivo in colpa nei confronti di alcune persone. Lui mi ha detto che se era così dovevo chiedere scusa. Io ho pensato che quelle persone non lo conoscevo nemmeno, però non gliel'ho detto. Abbiamo parlato per una decina di minuti. Alla fine gli ho chiesto se ci fosse qualche penitenza. Lui mi ha risposto che se proprio volevo potevo recitare 3 Paternoster e 5 Ave Maria, ma che se preferivo ci potevamo fare una chiacchierata con più calma fuori davanti a un aperitivo. Ci siamo scambiati i numeri di cellulare. Io stavo per alzarmi, però lui mi ha fermato e mi ha detto «Aspetta, manca l'ultima cosa». Ha sollevato una mano e ha chiuso con un «Ego te absolvo in nomine Patri et Fili et Spiritus Sancti». The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Wish you never had let me. Rolling in the deep. you play it with the beat. 80024 0024, dopo questa cover di Rolling in the Deep. Mazza, sembro, Radio Milano, come si chiamava? Radio Milano International. Bene, allora, dopo questa splendida cover, solo qui a Radio 24, 349-238-6666. Allora, la Sartiglia è una corsa con i cavalli nel centro della città di Oristano, nella quale i cavalieri si sfidano nel centrare cavalcando con una spada una stella forata appesa ad un filo. Ciao Matteo, è un po' come ad Ascoli, no? La giostra del Saraceno, più o meno. Del Saracino, perdonatemi. E poi ancora, Fabiana, Arezzo, non è ad Ascoli, hai ragione, Arezzo. Fabiana, caro Matteo, vorrei tanto poterti lasciare il mio numero. Non puoi lasciarmelo il mio numero. Vorrei tanto che lo possa dare a Samir. Se lui vorrà mi farà piacere, sarebbe bello poterci frequentare e vedere. Bacio Fabiana. È la stessa ieri. Fabiana, te l'ho già detto. Samir ha sentito questa roba e ha cominciato veramente a girare come una trottola. Ti prego, Perché Samir? No. Samir, senza l'H, non riprende il cammello e torna a casa? Questo è parente di quello, la ciappa il cartin, ciappa il traghettin, ciappa il cammello e ti torni ca tua. Se non è lui, è parente probabilmente. Quello che chiamava, dicevano in diretta, c'è qua la polizia. Ciao Matteo, ho abitato diversi anni in diversi stati, lontani da qui, e confermo di essere confezionato un pezzo di casa mia là. Però non ho mai frequentato italiani, quasi voler proteggere il mio esilio. Ora invece mi divido tra Lago Maggiore e Monaco di Baviera, e io sono qui. Ciao Enzo. Ciao Enzo, ho vissuto a San Francisco 2 mesi per lavoro, non frequentavo italiani di proposito, perché evitati e additati per la loro rumorosità e cacciaronaggine. Io però non credo che sia così, questo è proprio un bel luogone comune, nel senso che a me è capitato di frequentare degli italiani all'estero e sono persone normalissime che spesso fai piacere frequentare proprio perché sono italiani. Ed è il caso di Marco, che vive ad Amsterdam e mi ha scritto: non è una comunità ufficiale, ma non sono le comunità ufficiali che ci interessano oggi. Ma qui ad Amsterdam, dove vivo, abbiamo un meraviglioso club del libro per gli innumerevoli italiani che hanno scelto di vivere qui, sotto il livello del mare. Pronto Marco? Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, anche tu? Diciamo che me la cavo. Che tempo fa ad Amsterdam? Il solito, grigio, bianco-grigio. Ma che temperatura c'è più o meno? Intorno ai 18 gradi. Vabbè. Ah, ci vediamo la temperatura. Come qua. Senti, mi ricordi che cosa fai ad Amsterdam tu, Marco? Io sono al momento felicemente disoccupato, okay. In attesa di partire per un lungo viaggio. E quale? Cioè, vado a un volo per la Malesia e poi ho un permesso di lavoro per l'Australia per un anno. Voglio arrivare dalla Malesia all'Australia senza prendere l'aereo. In che senso? No, fammi capire. Cioè, tu vuoi andare come? In nave? Sì, nave, autobus attraverso l'Indonesia. Cioè, stiamo lavorando a organizzarlo. Ma scusami, tu però che cosa hai studiato? Che lavori hai fatto? Io qui ad Amsterdam ho lavorato come traduttore e come scaricabarile nel mondo della traduzione, cioè praticamente quello che il traduttore, invece di fare le traduzioni, va a cercare i traduttori. Ok, ho capito. E pensi di fare quello anche in Australia? Assolutamente no. Penso che la traduzione è un mondo terribile. Penso che andrò a raccogliere frutta, c'è della frutta con dei nomi bellissimi là. Ma Marco, scusami, Marco, esatto, sei un po' hippie? Assolutamente no. Ma quanti anni hai, Marco? 30. Hai 30 anni, hai uno straccio di fidanzata? Direi di no, altrimenti... Sì, no, lo straccio di fidanzata viene con me, è lei che mi ha coinvolto. E lei cosa fa nella vita? E lei era mia collega, si è appena felicemente licenziata. Che a tutto sommato è meglio essere felicemente licenziati ad Amsterdam che a Novara, ad esempio. Ma dipende da quello che ti piace. Amsterdam ci sono molte cose da fare quando sei disoccupato, quindi... Senti, raccontami ad esempio, tra le altre cose da fare, questa cosa del club del libro che avete organizzato per gli italiani. Volentieri. Beh, è una cosa che c'è già da diversi anni, quindi da prima che arrivassi io, e così, cioè, a sentirlo così sembra una cosa che... Cioè, molta gente spesso viene la prima volta e pensa di trovarsi in mezzo al gruppo dei mega intellettuali, ma in realtà è una cosa assolutamente informale, si va sempre a finire a dirette. Ci si trova, si trova una volta al mese, si parla di un libro diverso che viene. Cioè, portato. Si sceglie un libro, lo si legge e poi ci si incontra a parlarne. Sì, non necessariamente un libro di scrittori italiani. Si parla italiano, quindi di solito siamo per lo più italiani, qualche olandese simpatizzante. Dimmi l'ultimo libro che avete letto. L'ultimo libro è stato Frederick Beigbeder, un libro che ha diversi titoli, penso che si chiami Euro 999 nell'ultima reincarnazione. Ho capito, quello del pubblicitario francese che ha scritto un libro, giusto? Sì. È quello, perfetto. Marco, senti, io purtroppo ti devo salutare, però facci avere tue notizie, mi raccomando. Volentieri. Lasciaci tracce del tuo viaggio e della tua felice disoccupazione. Buona giornata, Marco. Anche a te. Ciao, ciao, grazie. Io sono qui. Siamo in una cucina nella fotografia di oggi. È una cucina ordinatissima. Guarda, mia mamma sarebbe fiera di te, di chiunque tu sia che ha scattato questa foto e che gestisce questa cucina. In alto sulla sinistra ci sono tutti i mestoli che sono appesi alla medesima distanza l'uno dall'altro. Piani puliti, lavandino pulito con le due spugnette, quella per asciugare l'acqua e quella per grattare le pentole in ordine. Una radio là in fondo, un microonde semiaperto, così esce l'umidità. E poi la frutta, un'affettatrice e in primo piano un tavolo con un vasetto con dei fiori, gigli credo, rosa, e poi una specie di... forse questo è il coso per fare il couscous, non lo so, è una roba di terracotta. E poi un bel sole che entra da sinistra e colpisce il tavolo. Elisabetta Jurig, 47 anni. È bastato raccogliere in giardino pochi profumatissimi giacinti e il tiepido calore del sole che entra in cucina ed ecco che tutto cambia. È proprio primavera. Io sono qui. Ho detto gigli io. Devo smetterla di far finta di sapere le cose. 800240024 349-238-6666. Per chiunque si fosse collegato, è scoppiato un putiferio tra gli ascoltatori credenti e gli ascoltatori atei di Radio 24 per il semplice fatto che ho raccontato di essere andato in chiesa ed aver avuto la tentazione e la voglia di confessarmi. Allora, ci sono chiaramente due schiere. Che meraviglia sentire il coraggio di dare una testimonianza di conversione. Vale più per questo che una predica. Sono felice per te. Bello Matteo, racconto del tuo momento toccato dalla grazia, proprio quella di Dio intendo, a me è capitata una cosa simile e camminavo a 3 metri da terra, e questi diciamo sono quelli a favore, poi ci sono quelli contro. Bene, adesso ci mettiamo anche a fare pubblicità alla chiesa, che schifo Roberto. A proposito, un sito che ti può essere utile, opusdei.org. Puoi diventare santo alla radio, vi adoro. Andiamo direttamente, dove andiamo? Andiamo a Roma da Giuseppe. Pronto Giuseppe? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. 15 anni a Chicago hai fatto? Sì, ho fatto 15 anni a Chicago. Com'era? C'era una comunità, ma erano persone che semplicemente si erano aggregate insieme o era ufficiale? Diciamo che ci sono due tipi di comunità. Ci sono gli stanziali, cioè quelli che sono figli di immigrati e di immigrazione che vivono principalmente in una certa zona di Chicago. Mm. E poi ci sono quelli come me o gli emigranti temporanei o di prima generazione che invece vivono in città e si ritrovano diciamo in luoghi e in posizioni completamente diverse. Tu che cosa ci facevi là? Io ci facevo l'architetto e designer di interni e cose del genere. Cosa vuol dire che hai costruito una torre di Pisa per sentirti a casa? No, io non ho costruito una torre di Pisa, ho detto che gli italiani, un gruppo di italiani negli anni 70 nei sobborghi di Chicago addirittura sono arrivati a costruire la torre di Pisa. C'è una torre di Pisa in cemento alta una trentina di metri vicino all'aeroporto di O'Hare. Ma che pende? Pende, sì, è tutta fatta in cemento, è precisissima, non diciamo non raffinatissima nel design, però è esattamente la copia, replica fatta in cemento. Vabbè, è orribile Giuseppe, non si può guardare. No, è bellissimo, ci ho portato molti toscani amici che venivano a trovarmi perché non credevano ai loro occhi quando la vedevano così bella pendente. Sì. Giuseppe, ti ringrazio molto, buona giornata. Anche a te, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Giuliana, sempre a Roma. Pronto Giuliana? Sì, eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao. Cosa stavi facendo? Stavi tipo... C'è chi in casa? C'è un po' di casino? No, perché non sono in casa, sono alla posta. Ah, sei alla posta. E come ascolti la radio? È con l'auricolare e con il telefono. Senti, hai il numero in mano? Sì. Che cosa devi fare alla posta? Devo pagare l'assicurazione della moto. Ma scusami, ma non si fa tutto su internet sta roba ormai? Sì, ma io non mi fido di dare il numero della mia carta di credito su internet. Grande. Preferisco fare la fila alla posta. Guarda, ho provato a fare opera di convincimento con mia madre. Mamma, metti sta carta di credito. Io non metto la carta di credito su internet. Quanti anni hai, Giuliana? Infatti, io ne ho 45. Ah, vabbè, ok. Sei più giovane di sono mia mamma. Più o meno della tua mamma, quindi. No, sei più giovane della mia mamma. Senti, tu hai vissuto a Londra. E cosa vuol dire che familiarizzavi con le ragazze italiane? Allora, ti spiego. Io vivevo a Londra e ho vissuto per un periodo a Londra. Ho deciso di andare a Londra nel momento in cui, dopo 13 anni di, diciamo, di convivenza, di fidanzamento, insomma così, avevamo interrotto il rapporto. Sì. E quindi ho deciso di andare a Londra perché tanto non avevo più voglia di stare a Roma. E quindi, e però vivevo in una casa famiglia. Sì. E quindi, cioè, in realtà questa era una signora che affittava le stanze perché aveva una Senti, ma Giuliana, a parte che non vorrei farti perdere il turno alla posta, e poi tra un po' devo chiudere. Fammi capire, tu cercavi di proposito le ragazze italiane o vi trovavate spontaneamente? No, perché sono capitate delle ragazze italiane in questa stessa casa. Sì. E quindi abbiamo falmierizzato. Ho capito. Tra l'altro la cosa strana è che io, che ero una visitatrice, diciamo, di Londra, perché poi a un certo punto, cioè, avevo cominciato a lavorare, eccetera, però comunque facevo da cicerone. Ho capito. Londra. Giuliana, senti, io poi ti saluto. Quanto devi pagare d'assicurazione? 588. Ammazza, che moto hai? Io personalmente ho una 998 Ducati. Hai una Ducati? Sì. Tua? Sì, mia. Giuliana, grazie mille. In bocca al lupo. Ciao, grazie mille. Vi voglio leggere un pezzo che è perfetto per oggi. È un pezzo che è tratto da un libro che si chiama Radio Colonia. Negli anni 70 gli italiani che emigravano in Germania e che andavano a fare i lavori che servivano in quell'epoca in Germania, avevano un servizio che era un programma di lingua italiana nelle radio tedesche a cui loro potevano scrivere delle lettere. C'era un conduttore italiano che si chiamava Giacomo Matturi, a cui loro scrivevano lettere come questa. Offenbach, Germania, metà degli anni 70. Al signor Giacomo Matturi. Adolf Hitler le ha sbagliate tutte, ma quando ha detto che noi siamo un popolo di zingari, la ci ha visto chiaro. Italiani, in ogni angolo della terra, nella stessa Italia, gente che va dal sud al nord e viceversa, ogni tribù si sposta con la propria lingua, i propri usi, costumi, tradizioni e via dicendo. In Europa noi siamo i migliori manovali, spazzini, facchini. In ogni lavoro sporco siamo in prima fila. Quello che gli altri rifiutano, noi alziamo la mano, noi facciamo ore in più degli altri, ma prendiamo di meno. In ogni catastrofa sul lavoro, metà che lascia la pelle siamo noi. Analfabeti e semi-analfabeti, abbiamo in Europa un primato e non invidiabile cosa vuole questi, siamo i frutti della democrazia cristiana. Bisogna da parte vostra accettare la realtà e cambiare il sistema. Non andare contro alle fondamentali leggi della natura, anche se sanzionate da ingiuste leggi. Contro di noi fate una guerra inutile, ingiusta, inumana. C'è democrazia e democrazia. Questa tedesca ha delle leggi così avanzate che non hanno niente da invidiare a quelle dei paesi socialisti. Perché? Perché hanno la classe dirigente più avanzata in Occidente e noi abbiamo la più arretrata e corrotta. Distinti saluti. P. Francesco. Lei legga o no questa? È la pura verità, signor Matturi. Se per caso la dovesse leggere alla radio, sia gentile di leggerla di sabato o di domenica, che al lavoro faccio i turni. Si chiama Radio Colonia questo libro. Emigrati italiani in Germania scrivono alla radio, pubblicato da UTET. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?